mondo si è sentato di dirla. Non credo che sia scarica, perché l'avevo staccata dal microfono, ne ho messo una di qua, magari non sarà nuova. Ma dimmi un po', è troppo bassa la radio, spiegami che non ho capito. Trappi quando moduli, trappi. No, non capisco cosa c'abbia. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova radio. Ha migliorato un po'. E adesso? Adesso non lo fa più. Ah, però alza il microfono perché ce l'hai basso. Poco poco prova a salire. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova radio. No, vai ancora alta. Ma secondo me c'è qualche condensatore che non va bene, capito? Probabilmente la devo far camminare, c'è il Mickey Gaine della paletta, magari ancora, come si chiama, i potenziometri saranno mezzo spurti, vorrà smontato e pulito, niente è cambiato adesso. Si sente sempre, si sente sempre. Prova a toccare qualche potenziometro, non si sa mai. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova, sto muovendo il potenziometro, 1, 2, 3, prova radio. E già lo fa sempre, già. Ma non è altro microfono da provare. Sì, c'ho il microfono suo da tavolo, mira tavolo, è che non c'è microfono, però sto pensando a quello. Aspetta che poi facciamo una prova, con l'altro non lo posso provare. Con l'altro baracchino, sempre gracchiando sta. Sta sempre gracchiando sta. Esetta, se riesco ad attaccare l'altro baracchino, proviamo un altro, aspetta. Fai un passaggio che stava migliorando. Cos'è, tu? Sta migliorando sta roba. Sta migliorando, ma mi devi dire, è troppo forte la radio o che cosa? No, la radio non c'entra nulla, è proprio un qualcosa che, secondo me, qualche componente in perdita, capito? Aspetta che metto un M93 attaccato a vedere se cambia qualcosa. Ah, poi adesso è ancora meglio. Guarda adesso, questo è un microfono attaccato, un M93. Lo fa sempre, ma secondo me ha qualcosa la radio. Cioè. Quindi non è il microfono, è la radio. Aspetta un attimino, vediamo un pochettino, provo a muovere il coso del... Ho pulito il Power Mic, quello, il Mickey Gaine. Guarda un po' adesso se è cambiato. Lo sto sempre facendolo, sta. Però con quello là va migliorato un po'. Secondo me bisogna aspettare un po' perché, come si dice, sicuramente in mezzo... da tanto tempo ferma e fa così. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova radio. Sta migliorando, sta. Quindi nella radio, non è il microfono. 1, 2, 3, prova radio, attenzione, canale 10, 27075. Vediamo un po' se sto uscendo. Comunque il segnale mi ha detto che è buono, Antu. Sì, no, il segnale è a fondo scala qua. Vabbè, ho lo smitter dell'Intec. Allora, la radio è bassa. Non è che sia bassa, la radio va quasi bene. Però ha questa cosa, quando si inizia a parlare di più, ma sicuramente è qualche cosa in perdita, qualche componente in perdita, appena. Guarda adesso, sono levato un pochettino, 1, 2, 3, prova radio. Sì, ma adesso sta migliorando, più la stai utilizzando più sta migliorando. Lo fa sempre un pochettino, non come all'inizio, che era secondo me c'è qualche componente in perdita. Vai, qualche condensatore o qualcosa. Adesso ho sollevato un pochettino il Mickey Gaine del microfono. Guarda un pochettino se sta migliorando. Sta migliorando, sì. Guarda, adesso ho abbassato il microfono, il Mickey Gaine della radio, ho aumentato quello del microfono. No, già va bene, già. C'è vero, ma non è tanto quanto che tu aumenti, abbassi. È proprio il coso che ha, come si dice. La radio che ha un qualcosa, perché la modulazione in se stessa non ha nulla, è proprio la radio che ha un qualche cosa in perdita, secondo me, e ti fa fare così. Ma più vai, ti sta migliorando. E magari conviene lasciarla un po' accesa, in modo che magari qualche componente che è in perdita si stabilizza, qualche condensatore magari si ricarica meglio. Comunque sta migliorando, mi ha detto. Il volume del microfono è basso o lo devo sollevare? No, va bene, va bene. Tranne le scariche che ha, però no. Va bene. difetti che ci sono come voce. Buona, veramente buona. Si sente bene, questo è un pane che c'ha la guerra, ha fatto la guerra, però in buone condizioni. Sì, sì, in buone condizioni sì. Ah, che capo, utilizzala pure quella, non lasciarle così le cose. Un sogno diverso di radio da far funzionare, adesso questa la metto in cosa, anche la 48 devo far andare, solo che adesso mi viene male a collegarla perché il cavo dell'antenna è un po' nascosto, aspetta se ci riesco a attaccare la 48. Provalo. Quanti watt c'ha quella radio? Questo dovrebbe avere 6-7 watt, questo base parliamo. Già va bene, sono una grossa potenza. Qua è a fondo scala, là sarà 1,30, qui ci sarà all'incirca. Ho preso molto rispetto alla solita radio che sento, come forza. E beh, è una cosa, però è buona, roba. No, non parlo di segnale, parliamo di voce, la, molto più bassa rispetto all'altra. Non è che, sì, diciamo che un po' più bassa, però quella là è un altro pianeta. Vabbè, come ti munirate così entra la Ferrari, la matrice cosa. Ehi, guarda, sto alzando ancora un pochettino, dimmi se basta o sono troppo alto. Già va bene. Questa era una radio che usciva molto bene in modulazione, infatti mi facciano tutti i complimenti, però in ricezione è una cagata perché è molto rumorosa, poi quando c'avevo i vicini qua saturava subito, dovevo chiudere tutto l'RF gain, però in trasmissione funzionava bene. A me qui gli questa radio. Un bel, questa ne prende un bel, è di quelli vecchia generazione, quarzato, mentre c'è un altro Intec base, quello sì che è una bomba, quello è meglio del 140 in ricezione, era migliore del 140, in trasmissione è una cagata, infatti ci vuole, bisogna mirare il microfono suo e ci ripetere il tempo, però in ricezione, anche se ce l'hai sotto casa, non disturbava niente, nessuno, pulito, perché era una radio di nuova generazione, un base, il multicomo della Intec, c'ha tutto quello lì, quello c'ha tutte le cose possibili da immaginare, ma è un baraccone, un baracchino, una caretta. Sono belli quelli, capa, sono belli, chissà che ha tempo c'è se sta a sentire la 48. La 48 mia è nuovo, c'è una settimana di vita, ma un amico se l'aveva messo in macchina per quando usciva un rappresentante, pagando i borsi di blocco e cosa del genere, e poi mi ha detto ma cosa, e me l'ha regalata a me, nuovo, c'è anche la scatola. Davvero? Sono nuovo, l'ho usato poche volte perché poi subito dopo mi ho comprato questo patch, questo base, perché a me i baracchini base non mi piacciono, ne ho altri 2 o 3, 4 di questi base, di base, di veicolare, ma non mi piacciono. No, ma già c'è io. Aspetta un secondino, se riesco a usare il coso, a mettere l'antenna ti faccio sentire la 48. Mettilo a vedere, che cosa mi può fornire l'antenna? Non vedo il pezzone. Ma lo sai cos'è, tu, che ci sono una marea di radio, io faccio una marea di radio, sono delle medie, quando capita te faccio la fotografia e ti spavento. Ah, prova a mettere la 48 a vedere come è andata. Attaccato dall'alimentatore, sì. Ma è già tutto pronto, devo soltanto staccarmi a un cavo d'antenna, aspetta, cioè, eccolo qua, già ci riesco. Ehi, vai, va. Guarda, tanto se esce questo. Minchia. Si sente? Una bellissima radio. Questa è una 48 con un microfono M93, meglio dell'altro esce. Bellissima. Aspetta che ti metto il tunnel e mi dici tra questo microfono e il tunnel che è meglio. E fai. Questo è il tunnel, Antu, chi è? Una bomba, la 48, non ce n'è per nessuno, ma cos'è, originale, non è mai stato aperto di LG quello. Questo è nuovo in scatola, dato dalla scatola una settimana di vita, come l'hanno comprato me l'hanno dato. Cazzo mi ha radio. Si sente bene? Benissimo, molto meglio del patch. E dimmi una cosa, cosa è cambiato? Col tunnel è meglio o peggio? Ma all'incirca siamo lì, questo è un po' migliore come cosa. Bellissima radio è la verità, capolo. Veramente bene esce quella 48. Spinge forte, dico. Il microfono posso sollevarlo, ti ripresenta, non sono altro. No, la caro musica è perfetto. Se sollevi, uia. No, con questo posso sollevare il canto buio. Guarda, non bella la 48 sempre la 48, è conosciutissimo proprio per le prestazioni che ha. L'unico pecco che è che piglia a voi come faccia, però come coso ce n'è per nessuno. No, sinceramente a me non piace perché è scomodo tutti questi tasti duri a cambiare, però come robustezza che è tutto ferro, diciamo, non li posso dire niente. Tranquillo, se tu senti la modulazione mi ci capolo. Aspetta, passo bene questi fili, scusa un attimo. Poi Smith è l'originale. No, è tutto originale, questo baracchino non ho mai subito nessuna cosa. Sì, ma cos'ha che fatti originale stai utilizzando? Cosa hai detto? Stavo utilizzando anche i suoi watt. Ehi, anche ti sto dicendo l'originale, quanto darà? 4 watt, mi forse neanche c'è lì. Minchia, cazzo, veramente complimenti, Una bellissima modulazione, funziona, che è una meraviglia. Questo è l'originale suo, un baracchino omologato, non ha subito mai nessuna modifica, è ancora, non ha un grado. Cavolo, guarda, è veramente buono come apparecchio. Se lo trovo uno, me lo piglio. E il problema è che se c'è gente vicino è messo. C'è solo quel piccolo problemino, ma come modulazione, cavolo, no. Non ce n'è per nessuno, Ma questo tale dice che va bene, cioè meglio di quell'altro, meno vantaggio di quell'altro che c'è. Vanno bene tutti e due, questo è un po' meglio, però anche l'altro non dispiace. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera a lei. Mia Eugenia, come mi ascolti da quelle parti, Eugenia, con una 48 da 3 watt? Chi sei, Luca? Roberto sono, Roberto chi? A chi sai conosce Roberto? Roberto è conosco io, il mio produttore preferito. Ehi, ah no, sto provando un baracchinetto piccolino, una 48, mi ascolti? Certo, Roberto, ti ascolto. Funziona bene, c'è una bella radio a forte. No, dico, mi ascolti bene, dico, sono con un microfono da tavolo, un Tarnet più 3 con un ala 48 che sta uscendo con 4 watt. A voi io ti ascolto bene, anche come radio è molto forte. Quindi la radio va bene con questo, no, non avevo mai messo il Tarnet più 3 su questo baracchinetto. Va benissimo, va benissimo. Io sto cercando un Tarnet più 3 per il mio Galaxy. E il volume va bene del microfono a lunga distanza? Sì, sì, è perfetto, va benissimo, Robo, è andato su. Ok, rilascio a cosa? Ad Antonio. Sì, buonasera Eugenio, mi senti? Sì, ti sento, buonasera al tuo, vabbè, come stai? Sta a posto? Tutto a posto, sto uscendo con pochissimi watt. Capo, pure a questo d'ora arrivo con pochi watt, te ne immaginate? Quindi che ci arrivi, alla grande, se non me lo dai le parti, già va bene. Sto usando il mio vecchio Intech, 50 power, a te immaginenti, non arriverò con un grande segnale, però arrivo lo stesso. Sì, vabbè, il segnale non è forte, ma la radio già va bene, va benissimo. E oggi io quanto arrivo con questo baracchinetto? 5. E la radio 5? Sì, io e la radio, va bene. C'è bisogno di uno, bella forte, bella pubblicata, bella, bella, bella. Ok, dai. Però non mi piace perché qua non ho il microfono, non ho l'altro parlante esterno, passo all'altra radiolina, dai, 5 minuti rimango e poi vado a fare cosa. Va benissimo. Va bene. Però non mi ha mai dato un giudizio come sto uscendo io, lo sai. Ma tu io ti sento benissimo qua, Santiago 7 Radio 5. Arrivando un contatto ragazzi, teniamoci forti. Già mi danno, già lo so, Giulia. Andiamo bene, Antonio. A te rottura di scatola. Chi mi butto d'ora da voi tocca di più. Io sono stanchissimo. E oggi guarda adesso come mi ascolti. Vabbè, adesso sei tu. Adesso proprio tu. Non ti ha fatto il segnale. Quanto è salito il segnale? Il classico si passa da 9. Io ti ascolto 9 più 5 qua, radio 5. Però stai usando anche tu un K? Sì, con l'MG60. No, ti ascolto perfettamente. Sei quasi 9 più 10 con i picchi. Stai andando alla grande. Cos'è, un 14 o un 44? 14. No, stai spingendo. Ma cosa c'hai? Antenna? Ti sei cambiato antenna pure tu? Sì, avevo messo la Game Master. Ho cambiato la posizione. No, 9 più 10 quasi, ne picchiate lì. Vai Anto, tu invece avevi quanto pare più Antonio? Io ho poca potenza, pochi watt. Ma ah, stai usando Anto tu? Intec sto utilizzando, 5,50. Tu sei quasi 9 più 25, 9 20 con i picchiati da 9 25. Ma pochissima potenza proprio. Scappa. A Porto Torre se come arrivo questo apparecchio? Quasi 3. Ma è poca potenza, no. Non sto spingendo nulla. Comunque dopo mi confermi anche la radio non è prefissata, sì, perfetta. Si ascolta perfettamente, beh dubbieno arrivi. Su questa parte sono contentissimo. A due se non lo potevo vedere. Io ci ho fatto non lo potevo vedere, ci mi ha cambiato proprio l'opinione, perché ero innamorato di questa. Mi piace. Si sente bello lo stacco del microfono, poi quando il PTT lo stacchi si sente proprio tac. C'era il look dell'MC60. Sì, sì, sì, no, bello pieno. Vai a tu. KK, no, anche qua arriva benissimo, Arriva Eugenio. Scappa. Adesso dopo un po' cambio radio e vediamo un po' quanto arriva a Porto Torre. Mi aspettare un po'. Il segnale. Avete parlato in due, cosa ha detto Eugenio? Sto del segnale, mi prende la posizione, molte volte, tu sei anche bello alto. Ah, io grazie a Dio già sono abbastanza aperto, soprattutto Alghero, io faccio bene Alghero, molti di Sassari non riescono ad arrivare, come arrivavamo io e Clattaggio ancora meglio di me, ad Alghero noi spariamo bene, mentre altre zone di Sassari sono un po' negativi. Avanti di nuovo a te, Antonio sta mettendo il cacciabombardiere. Ecco, sono curioso di sentire a Claudio quando si piatterà super bene, non lo fa a casa. Che le da lì è abbastanza alto, dovrebbe stare bene anche da lì. Sì, sì, qua arriva a 9 più 35 quasi, Claudio, no? Già si fa sentire, Claudio, poi penso che Porto Torre arrivi forte. Ebbè, Porto Torre! 4 si è passato a 8. Facciamo i bravi qua, Mica ti schiaccio Anto, io quando arrivo sono normale però non sto spingendo, tieni presente. Qua in questo spinta sì, 9.30, 9.40, anche là, scappa. Come arrivo lì? Adesso, c'è stato l'otto. Sotto lo sento il disturbo, lo schiacci tu Anto, però mentre hai pezzo di merda, ti credi che non lo so chi sei? Adesso mi hai rotto le palle stanotte, me. Adesso ho aumentato però, l'hai visto? Cuglione! Testa di cazzo, te, guarda! Che mi fai vegliare a cazzo la macchina, a cazzo, a te posso vedo via. Ma come si chiama? Quanto ti arriva? 9.20 arriva! Ma dall'altra dolce in giù già arriva più forte, non ti preoccupare! Ma adesso sto aumentando, adesso è 9.25 da me. Malato, Oggi, se mi ascolti, dai, ci sentiamo in un'altra occasione, perché non riesco più a sentirti, c'è questo signore che si sta divertendo, non capisco cosa ne abbia. Ok, dai, aspetta un paio di minuti, comunque oggi quando passi in zona mia passa a salutarmi, dai. Ma me la metti a camera portante, tu. Tra voi, ma non ti fate nulla. Che gusto c'ha la persona a fare così, non capisco. Vabbè, oggi se mi hai ascoltato passa quando vuoi e fatti sentire quando vuoi in radio, quando naturalmente ci siamo. Anche non ti muovino qui sotto con la macchina a vedere e ti metti ben bene e ti mette. Dopo un po' senti quel cazzo di apparecchio, lo senti cazzo fumare, lo senti. Marco di catena che ti mette in linea la manetta, ti metto 205, ti metto 300 watt, cazzo, e tipo se ci rompo un angolo, scemo. Ma vabbè, che zona è? Perché se alla traduce dovrebbe arrivare più forte di me a te. Ah, è così, no, nelle campagne lì, non ti preoccupare tu. Non lo so, che divertimento. Sei un malato, sei un miserabile, ti devi ritirare dalla frequenza. Sei un miserabile, sei, cazzo. Giuro che mi trovi ubriaco, cazzo, vengo e ti cerco. Cazzo, giuro, cazzo, ti do questa susa, cazzo, che la metà è bassa. Tutti di neanche, dai. Non ti sento neanche, sento malapena Roberto. Che non lo so con dei cazzo, è ancora Effendi Rubizzino minore, pagliaccio cazzo. Claudio, cosa hai detto? Ma che è entrato Claudio, Antu? Ehi, a Claudio Sparviera è entrato. Claudio, ci sei? Tu l'ho sentito di guizza, di sugita, cosa ha detto? Ha detto che non mi sente. Non ti sente? Vai tu. Claudio, a me mi senti? Sì, a te sì, ma Antonio lo annienta. Appa. Lo so, sono una posizione diversa. Antonio passa, lo disturba però passa Antonio, a Eugenio lo frantumeggia, qua arriva 9.25, Antonio è 9.30. E tu vabbè claro, lo superi. Vedi Ustica. Dai, ciao. Luca lo distrugge qua. Io non lo trovo, lo cazzo che il microfono in coda, infilalo. A te devo sorpassarlo, ma vai, gira, vai. A te non ti passa, tu, assolutamente, passa Roberto, vabbè, a Claudio, a Eugenio proprio lo disintegra. E dove vai, che ti marada, guarda, io ascolto il link nazionale, e c'è sempre questo qua che disturba. E mi pare che, non dico che sia lui, però dico, fa lo stesso gioco di quello che disturba nel link nazionale. Luca, dimmi Roberto. Ma a me mi passa? Sì. Ma di brutto o di poco? No, io ti sento comunque. Adesso questo passaggio ha passato anche a Claudio. No, ma no, io lo distruggo sia al monte sia da Roberto. No, Antonio passa, non dico benissimo, però sotto un po' lo disturba. Luca forse te la giochi. Sì, poco la giocava, ma la puttana a me mi gioca bunghi su acqua. Figurate a me che stavo dicendo, stavo per chiudere, adesso sei stato tu e Claudio, solo 5 minuti, ma già si stancherà, eh? A me, grazie, chi mangia qua puntino, cazzo, io via, te lo pizzicheggio. A me che non mi fai un cazzo, ma che cazzo di portate vuoi mettere, io te, vai, 200, te, vai, piagami il culo, tieni, a tutta potenza, io gioca. Tu, più la dai e più le gode. Adesso tra me e te non mi fa niente. C'ho 200 watt in antenna, non me ne frega un cazzo di farlo sapere. Eppure. Adesso che mi sono stufato, te, massima potenza. Aggiungiamelo! Si sta divertendo. Io mi diverto con lui, te vai! Vai a massima potenza, te, bed arroiazzato! Vabbè signori, dai, i giochi sono finiti per me, dai, io vado, ci sentiamo in un'altra occasione. Ciao Antonio, ciao Luca, Claudio sei all'ascolto. Ci sentiamo eventualmente domani se coincide. QRT da parte mia, ciao ciao. Ciao ciao Robè, ce la risentiamo. Avanti lo. Sì, ciao Robè. E poi scendi i capati, vado a questo cavolo di notto. Scendi il capo, c'è. Mi domanda un po', come mail? Cioè se c'ho il coso, il... cosa mi chiede mail, poi boh, non mi fa andare avanti, che casino. Succede, esce il capo sul computer. Gappa, gappa. Capito, Andrew. Più coso gli dai, più mattare dai, peggio è. Cazzo, non riesco a, non riesco a attivare. Cosa hai detto, Lu? Luca? Nulla, Andrew, boh, non me lo ricordo. Capo, sono tornato a capo. A poco gatto niente, ieri usare buona a fare questi cose. Io ya. Tanto non so che girusia mi. Roba la matti, cazzo. Ma prendi i soldi e compratelo pure tu, non rompere la palla agli altri, macco. Guardi che chi sia. Ma non riesci a sistemare il computer? No, la PC è apposta, non ci vuoi che sono andato a prendere l'antivirus? Ma non ci riesco, boh. Mi manda un po' di cose. Io ho organizzato l'antivirus contaminato. Io un po' di ci ho capito. L'antivirus tutto strano, ga. Io altre volte le foto complicate, poi devi risolvere, guardare com'è, perché è diverso ogni casino. Boh. Ancora esiste Norton? Scappa. Da poco lo sto utilizzando. Che caldo che c'è stanotte. E pura, c'è freschetto. Ma qua c'è caldo, sotto tetto c'è caldo. Sotto tetto c'è caldo, c'è... Che casino! Yeah. Ma non c'è qualche cosa, qualche tutorial per poterlo installare? Boh, sto guardando. Sì, no, ci ruba dietro, dove altro lo posso fare? Altro non ci viene, non riesco a farlo. Io ho l'antivirus quello free e vanno benissimo, no, virus non, praticamente non l'ho mai pigliato. Chi mi cosa ha danno? Per il rotto di Marina il computer, capito? Che lui fa movimenti di conti in banca, tutte queste cose, pagamenti, e vuole un antivirus per proteggerlo. Beh, che comprino non si può installare? No, per quello che fa lui, no? Allora ce ne vuole uno più complicato. È Norton, sto dicendo. Che carità, ma qua c'è da usare. Attenzione, passo, mi guarda un po' di cosa. Non lo so. Aspetta, mi viene lì. Secondo me dovresti contattare un qualcosa e capire un po' di più. No, sto disinstallando. Adesso vediamo un po'. Qua dice, uno, visita norton.com /setup. C'è un qualcosa. Ma non è che c'è uno... cosa adesso? C'è uno vecchio di installare il vecchio e metterci nuovo, no? No, non c'è nulla. Non è altro. Devo formattare. Ho capito. Qualcosa bisogna fare. Ok, io chiudo. Ti do la buonanotte. Sono stanco, cazzo, non lo so più. Ciao, buonanotte, ho preso un po' di caldo. E via. Ciao, buonanotte, ce la sentiamo. Ciao a tu, buonanotte anche a te. Ciao, ciao.